Si racconta che nel 1809 un giovane indigeno di 16 anni di pelle scura si tuffò in mare e raggiunse una nave americana ancorata nella baia delle Hawaii chiedendo al capitano di portarlo con lui in America. Obukia, il nome del ragazzo, fu ospitato in casa del capitano e subito fu assorbito da quella nuova vita e dal nuovo ambiente. Vicino alla casa del capitano c'era il college di Yale e Obukia desiderava ardentemente di frequentare una scuola. Venuto a conoscere il suo desiderio, alcuni studenti insegnati aiutarono il giovane a leggere la Bibbia e a studiare. Poco dopo, Obukia divenne un figlio di Dio. Subito in lui nacque il desiderio di poter tornare alle Hawaii per parlare alla sua gente di Gesù. Intanto aveva cominciato a tradurre la Bibbia in lingua hawaiana. All'insaputa di Obukia, alcuni giovani si stavano preparando per andare all'estero come missionari. Fino a quel giorno nessun missionario protestante era mai uscito dall'America. Un giorno questi ragazzi si ripararono sotto un fienile durante un acquazzone e lì pregarono, progettando di portare il Vangelo alle nazioni straniere. I credenti di oggi ricordano quell'episodio come la riunione di preghiera nel fienile. Fu da essa che ebbe origine il movimento missionario. Poco dopo quella riunione di preghiera, uno dei giovani che vi avevano presenziato incontrò Obukia a Yale. Ebbe un'idea insolita. Perché non mandare Obukia a predicare l'Evangelo alla sua stessa gente? Il giovane si mise all'opera e aiutò Obukia a diventare uno dei primi 12 studenti di una nuova scuola organizzata per preparare missionari. Ma proprio mentre Obukia stava preparandosi per tornare alle Hawaii, si ammalò di tifo e morì. Fu subito pubblicato un libro su Obukia e dappertutto si parlava di lui, nella chiesa, alle scuole domenicali e nelle case. Due anni più tardi, 17 missionari salparono per le Hawaii e arrivano a destinazione il 30 marzo 1820. 17 anni dopo il loro arrivo, vi fu un grande risveglio spirituale. Centinaia di hawaiani divennero cristiani e si formarono molte chiese. La vita di Obukia, ma soprattutto la sua morte, hanno avuto il risultato di dare inizio ad un movimento missionario nelle Hawaii. Questo episodio mette in evidenza ciò che Gesù disse a Filippo e ad Andrea. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Giovanni mezzogiorno e 24. Gesù stava parlando ancora una volta della sua morte e ne parlava in senso figurato con l'esempio di un granello di frumento. L'enfasi di questa parabola non era tanto sul granello di frumento, ma sulla sua morte. Gesù stava dicendo che la sua morte sarebbe stata indispensabile perché senza questa, come per il granello di frumento, egli non avrebbe portato frutto, cioè non avrebbe salvato l'umanità. Gesù ha sempre parlato della necessità di portare frutto. Infatti egli disse ai suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia». Giovanni 15 e 16. La scelta di Dio di chiamare delle persone a lavorare nel suo regno non è stata quella di renderli importanti o perché fossero onorati più degli altri, ma perché portassero frutto, perché rendessero più feconda la vigna di Dio. E, per fare questo, la regola non è lavorare di più, ma è quella di morire. Quando si parla di morte, si entra in un campo molto delicato. Si parla di una esperienza sconosciuta per i vivi, si parla di un argomento che noi vorremmo evitare. Eppure, la morte è un principio divino importantissimo. Prendiamo l'esempio del granello di frumento. Se vogliamo avere del grano, dobbiamo seminare del grano. E seminare del grano significa privarci del cibo che noi avremmo potuto mangiare. Inoltre, più il granello di frumento è bello, meglio è. Questa immagine trasportata nella vita significa che, se vogliamo avere molto frutto nel campo di Dio, dobbiamo privarci delle persone più importanti, persone che sarebbero state utili. A volte, come nel caso di Obukia, la nostra opinione alla morte di un giovane che avrebbe potuto essere un grande strumento nell'opera di Dio sarebbe negativa. giudichiamo la morte di un uomo consacrato a Dio una perdita, eppure quello che apparentemente è una perdita diventa strumento di grande benedizione, mentre per un incredulo la morte si trasforma in dramma costituendo un incidente nella vita, per un figlio di Dio essa rientra nel piano del Creatore, affinché la vita di quella persona sia fonte di benedizione. Una simile riflessione, potremmo anche essere pronti ad accettarla, ma se Dio ci dicesse che oggi il granello di frumento da seminare siamo noi, non so quanto saremmo pronti a dare la nostra vita. Una fede è tale quando dalla teoria si passa alla pratica. Sono molti gli esempi che rivelano quanto frutto porti una morte precoce secondo i piani di Dio. Consideriamo la vita di Gesù morto a 33 anni. Egli faceva del bene, sfamava migliaia di persone, insegnava cose meravigliose, e per questo la sua crocifissione per i suoi contemporanei era una grande perdita, una grande sconfitta del bene. Ma le cose si rivelarono esattamente al contrario. La salvezza dell'umanità dipende proprio dalla sua morte precoce e ingiusta. Il primo martire, Stefano, un uomo ripieno dello Spirito Santo, è stato lapidato ingiustamente e la Chiesa ha perso uno dei suoi migliori uomini. Eppure, mediante quella esecuzione ingiusta, l'Apostolo Paolo ha visto come muoiono i cristiani, diventando in seguito anche lui cristiano. 5 missionari in Ecuador vengono trucidati, e sembra che si sia fermata la testimonianza del Vangelo, ma in seguito, causa questi sacrifici, si convertono decine di persone, tra le quali i 4 assassini dei missionari. Una credente giapponese voleva servire il Signore, ma fu data sposa ad un ufficiale dell'esercito. Gli muore il marito ed ha una prospettiva angosciosa, ma in seguito le sue 2 figlie diventeranno missionarie. Molte persone cercano Dio e trovano Gesù Cristo quale Salvatore dopo la morte di un figlio o di un loro caro. Mio padre è morto che avevo 13 mesi lasciando 2 gemelli. Mia mamma sì, è trovata in grandi ristrettezze economiche e io sono andato a lavorare prima dei 16 anni. Ho avuto un'esistenza di normale benessere, ma se fossi stato un figlio di papà ricco non so se oggi fossi un figlio di Dio. Anche se lo fossi diventato, non so se la mia vita spirituale sarebbe stata benedetta quanto il fatto di essere cresciuto orfano. Oggi posso testimoniare che Dio è stato veramente mio padre, cosa che non tutti possono affermare di avere realizzato. Ancora una volta, possiamo dire che le vie di Dio non sono le nostre. Se si vuole portare frutto, non solo la morte è necessaria, essa è indispensabile. Per morte non si intende solo quella fisica, ma soprattutto quella spirituale. Gesù disse: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Rinnegare se stesso significa rinunciare al diritto di gestire la vita come si vuole. E questo vuol dire morire a se stessi e ai propri diritti. Prendere la croce significa morire all'onore, alla gloria, al successo, ai piaceri illeciti e alla propria vita passata lasciando dolori, sofferenze e le loro ripercussioni al tempo a cui essi appartengono. Seguire Cristo significa morire alla seduzione del mondo. Abbiamo detto che lo scopo per cui Dio ha scelto i suoi figli è quello di portare frutto, molto frutto. La morte fisica, l'abnegazione di se stessi, sono certamente elementi indispensabili per essere fruttuosi, ma vi sono altre fonti che ci spingono a portare frutto e che un figlio di Dio deve tener conto. Ne prendiamo in esame 3. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Salmo 1:1-3. A volte può essere noioso sentirsi sempre spronati a leggere la parola di Dio. Tuttavia, leggere le scritture che Dio ci ha dato non solo è necessario dal punto di vista religioso, ma è indispensabile per portare del frutto alla gloria di Dio. Da notare che chi si nutre giornalmente della parola di Dio, non solo porta frutto, ma lo porta nella sua stagione, cioè quando è il momento opportuno. Se ci riconosciamo aridi, forse non meditiamo la parola di Dio giorno e notte. Un secondo elemento che ci induce a portare frutto è la sofferenza. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Giovanni 15, 1 a 2. Come abbiamo preso in considerazione, anche la sofferenza in generale ci fa avvicinare a Dio. E, da ricordare che il vignaiolo pota il tralcio che fa frutto, il che vuol dire che Dio lavora sempre più profondamente in chi è già attivo per il regno di Dio. Il terzo elemento che ci induce a portare frutto è la fiducia in Dio. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero, piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, le sue foglie rimarranno verdi nell'anno di siccità, non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Geremia 17, 7 a 8. Avere fiducia in Dio non significa avere la fede quando tutto va bene, quando tutto quadra, quando il vento della vita è favorevole. Al contrario è soprattutto mantenere quella fiducia certezza, nonostante tutto, anche quando sembra che ogni cosa crolli, malgrado le situazioni siano avverse, e nonostante tutto sia illogico. Eppure si continua a credere che tutto serva per portare frutto. Questo in sintesi è la morte, quella morte del granello di frumento, senza la quale non può portare frutto. Se amiamo Dio e il suo regno più della nostra vita, allora saremo gioiosi di spendere ciò che abbiamo di più caro per portare il frutto che Dio si aspetta. Gennaio 198. Ellero.